Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Si chiama catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi. Varie organizzazioni internazionali e la stessa Unione Europea avevano chiesto che venisse stilato. Il Ministero dell'Ambiente lo ha pubblicato qualche settimana fa e contiene alcuni dati che possiamo, definire sorprendenti. Ne parliamo con Raffaele Tiscar, che è capo di gabinetto del Ministro dell'Ambiente. Buonasera. Buonasera. Allora, qui stiamo parlando sostanzialmente di classificare secondo i loro effetti ambientali i sussidi che a vario titolo lo Stato concede. Sì, corretto. Ecco, i numeri che vengono fuori principali quali sono? Prima di rispondere direttamente a questa domanda, mi consenta solo qualche battuta sulla classificazione che abbiamo operato dei sussidi, perché per sussidi si possono intendere sia trasferimenti diretti al produttore o trasferimenti diretti di fondi ai produttori o alle aziende al fine di ricoprire i costi, e queste sono trasferimenti quindi sul budget, ma ci sono anche sussidi che sono fuori budget, come la rinuncia a prelevare parte del gettito, oppure il sostegno che deriva da meccanismi di regolazione, oppure esenzione da tassazione e rimborsi, quindi classificabili quest'ultimo come sussidi indiretti. Certo. Questa è la valutazione preliminare. La seconda è che classificazione come sussidi ambientalmente dannosi e sussidi. Ecco, che cos'è un sussidio ambientalmente dannoso e che cos'è uno favorevole? Prima di dire i numeri, lei dice. Prego. Sì, allora, sussidi dannosi si intendono sussidi che hanno un impatto sull'ambiente che genera ulteriori costi per il risanamento ambientale. Le cosiddette esternalità negative. Esattamente. Per sussidi invece ambientalmente favorevoli sono l'esatto opposto, quindi sussidi che hanno un impatto sull'ambiente coerente con le indicazioni di salvaguardia ambientale, di mantenimento, certo, delle risorse naturali e quant'altro. E veniamo ai numeri. È chiaro, per esempio, che se io do un sussidio per mettere in pannelli fotovoltaici sul tetto, quello è senz'altro un sussidio favorevole all'ambiente. Se do a qualcuno dei sussidi per bruciare carbone, quello senz'altro sarà un sussidio negativo. Poi c'è tutto un mondo intermedio più difficile da valutare. Ecco. Sì. E quindi veniamo ai numeri. Allora, i numeri sono grosso modo due partite che si equivalgono in valori assoluti, che sostanzialmente si aggirano poco sotto i 16 miliardi. Circa 15,7 miliardi di incentivi che hanno effetti ambientali positivi, contro circa 16 miliardi, più o meno la stessa cifra, di sussidi che hanno effetti dannosi. E naturalmente questo secondo numero, che è la notizia, 16 miliardi in incentivi che hanno effetti ambientali dannosi, che quindi remano contro anche gli altri incentivi che stiamo dando dall'altra parte. Sì, tenga presente che questo è il portato storico di scelte, certo, che certo, hanno radice nel passato. Quindi, anche di qualche decennio in qualche caso. Sì, assolutamente, e che quindi non sono stati modificati con il sopraggiungere di nuove politiche più attente all'ambiente e alla preservazione delle risorse naturali o della qualità dell'aria. Certo, ecco, a proposito di spiegazione, spieghiamo bene, questi sussidi ambientali negativi, perché altrimenti passa un messaggio sbagliato, non è che sono dati per far del male all'ambiente, hanno delle motivazioni. Ecco, ci spiega un po' qui come funziona. L'esempio più classico riguarda ad esempio il differente trattamento fiscale tra la benzina e il gasolio. Questa è una misura che da un punto di vista ambientale oggi è poco comprensibile, perché ha degli effetti sicuramente dannosi all'ambiente in termini di qualità dell'aria. Più del 20% di differenza in imposizione fiscale a vantaggio del gasolio, corretto? Corretto, sì. E ha origine nelle misure che avevano lo scopo di incentivare il trasporto. Che però ha questi effetti negativi. Quindi, per esempio, se prendiamo l'agricoltura o la pesca, dove si danno dei sussidi perché altrimenti i costi energetici sarebbero insostenibili, lì non è che si può togliere il sussidio, però forse non bisogna darglielo per usare il carburante giusto. È questo il tema. Esatto, il tema è l'invito, accogliere l'invito delle organizzazioni internazionali di allineare le policy a strumenti coerenti tra di loro. questo senza brusche interruzioni, ma con una politica di progressivo riallineamento in un arco temporale noto, per cui certo, è predefinito, certo, tempo ai vari settori di riallineare i propri mezzi, le proprie attività, in modo tale da arrivare puntuali a cogliere tutti i benefici di un cambiamento, di un riallineamento degli sussidi. Senta, io non so se voi politicamente avete in mente già delle priorità o qualcosa del genere, o addirittura se lo stesso Padoan nella prossima finanziaria potrebbe in qualche misura tener conto delle indicazioni che vengono da lì. Allora, certi sconti sull'IVA hanno senso? Sì, diciamo che il momento non è dei più favorevoli, perché no. questo tipo di riallineamento richiede un lavoro di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ma soprattutto con il MEF per la simulazione degli effetti. Certo. Qualsiasi modifica sui sussidi ovviamente ha un impatto sulla vita economica da non trascurare, e vanno compensate tutte le relative poste. Grazie, grazie Raffaele Tiscar. Prego, prego, buonasera a tutti. È tutto anche per questa sera, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani.